ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Susanna Tamaro torna al romanzo e lo fa con Una grande storia d'amore pubblicato da Solferino. Il narratore è un uomo, Andrea, che ha da poco perso la compagna della sua vita, Edith, e le scrive virtualmente una lunga lettera in cui ricorda la loro storia. Tamaro torna dunque al romanzo parlando d'amore, un amore intenso ma anche conflittuale, e il pensiero inevitabilmente va al suo bestseller Va dove ti porta il cuore. Ma perché in questo momento della sua carriera Susanna Tamaro ha deciso di tornare appunto a parlare d'amore? Perché mi sembra che viviamo in un tempo di passioni tristi, di passioni spente, dunque riparlare dei grandi sentimenti, delle grandi relazioni, delle passioni che durano una vita, delle passioni che richiedono anche pazienza per essere costruite, no? Era una cosa molto importante. Poi io sono una persona molto un carattere passionale, l'ho sempre avuto, e soffro di questa mancanza di passione nel mondo circostante, non solo sentimentale, ma in generale siamo in un momento di grande tristezza, no? Dunque raccontare una grande storia vuol dire far vivere dei personaggi che continuano a vivere con noi e che faranno parte della nostra vita e ci arricchiscono, perché i libri importanti, secondo me, devono creare dei mondi in cui poi tu in qualche modo continui a vivere con loro e loro con te. No? Se mi è capitato con Vai porta al cuore, che ormai è un libro, insomma, classico, questi quasi 30 anni, incontrare le persone e dice: ah, sa, a tavola con me parlavamo di questo, di questo personaggio, di quest'altro. Cioè un libro, quando è totale, è un universo nel quale entri e in qualche modo non esci più. E veniamo ai protagonisti di questa storia, che sono Andrea ed Edith. Lo possiamo dire perché si capisce subito, insomma, dalle prime pagine che Edith non c'è più. E questo romanzo è una lunga lettera che Andrea scrive alla donna che ha amato per tutta la vita e che non c'è più. E ricostruisce la loro storia d'amore, ma anche in parte la loro infanzia, perché ci sono dei flashback sull'infanzia appunto sia di Andrea che di Edith. Partiamo allora da Andrea. Andrea viene da un paesino in provincia di Gorizia, il padre era avvocato, gli ripete sempre che lui ha dei quarti di nobiltà nella famiglia, eppure lui sceglie una vita completamente diversa. Lui sceglie il mare. Sceglie il mare, però non è un ribelle. Mi sembra, insomma, un uomo che tutto sommato rispetta le regole, a parte, diciamo, questo quasi colpo di testa iniziale. Sì, sicuramente Andrea è un uomo quieto, una persona che ama pensare, che ama riflettere, soltanto non si piega alle necessità di famiglia. Appunto, lui avrebbe dovuto fare l'avvocato, ma è spesso nelle famiglie, soprattutto queste famiglie di provincia in cui c'è appunto un quarto di nobiltà, magari poi un mondo anche molto ancora austro-ungarico, no? Perché è tutto impero austro-ungarico, e dunque lui si ribella perché lui vuole vedere il mare, vuole così andare alla ricerca di altri orizzonti, però non è appunto un ribelle, vuole vedere il mare perché vuole fare una vita disperata, e poi alla fine lavora sui traghetti, no? Quando non è che va a fare il bucaniere, no? però si ribella al destino familiare. E penso che in tutti i miei libri c'è in fondo questo lavoro sulla genealogia, no? Su chi ci ha preceduto e sul tracciare un destino che sia solo nostro opponendosi alla genealogia. Questo è un po' qualcosa che lega tutta la mia narrativa, perché noi siamo, il romanzo, la nostra vita dipende da chi c'è stato prima di noi e da chi ci segue. Dunque raccontare le storie senza illuminare il retro e senza giustificare il nostro esistere in base al retro o anche in contrasto al retro, non c'è ricchezza creativa, non c'è ricchezza narrativa. Dunque ho voluto fare due mondi diversi, perché Andrea appunto viene da una famiglia nobile decaduta e ormai in miseria, mentre Edith viene da una famiglia molto più semplice, sono due mondi molto vicini. Edith vive a Mestre, lui vive a Cormons, che è un luogo, una cittadina, diciamo, di vigneti principalmente, no? E dunque era bello fare un contrasto anche di mondi di origine diverso, perché la ricchezza fa la varietà nel racconto, no? E veniamo a questo punto ad Edith, che in realtà non si chiama Edith, e già questo dovrebbe far capire molte cose. Lei si chiama Patrizia, ma ha scelto di chiamarsi Edith perché vuol dire colei che cerca la felicità. Edith è una ragazza inquieta, è una ragazza che ha un passato sicuramente doloroso perché aveva perso il padre, insomma, quando era giovane. E quando incontra per la prima volta Andrea, lo travolge completamente con questa sua inquietudine. Che ragazza è Edith? Edith è una ragazza figlia del suo tempo, perché parliamo di anni 80, fine ai 60 anni 80, una ragazza che non ha pace in alcun modo, una ribelle, no? Infatti per lei sulla divisa di Andrea è quasi una cosa orripilante, no? A un certo punto dice, ma come si fa a vivere con una divisa? Perché per lei è, come dire, l'indottrinamento, l'essere relegati in un ruolo, dunque una cosa che lei non sopporta assolutamente. Il fatto di cambiare nome è qualcosa che è ispirato alla mia stessa vita, perché io detesto il mio nome, non mi sono mai sentita Susanna neanche un secondo della mia vita, avrei voluto chiamarmi Elettra, quello era il mio nome preferito, e dunque ho immaginato quanto ci si può stare a disagio con un nome che non ti rispecchia, che non ti riconosce, perché i genitori quando hanno il nome hanno una loro idea di te in mente, che poi magari tu non sei quella cosa lì, dunque dovrebbe essere lecito cambiare nome, no? Edith appunto è colei che cerca la felicità, ma fa molta fatica a trovarla la felicità, proprio perché ha un'inquietudine di fondo. Lei spesso scompare dalla vita di Andrea, anche quando iniziano una relazione stabile ci sono dei periodi in cui lei ha bisogno di allontanarsi per ritrovare se stessa e per tante altre ragioni. Come Andrea vive questa sua inquietudine? La vive con uno stupore, però anche in fondo con un senso di complicità, perché anche lui in fondo a suo modo è stato un inquieto ribellandosi al destino paterno, dunque lui riesce a entrare in questa fragilità dell'inquietudine pur avendo lui tutt'altra solidità, e a poter stare accanto pur soffrendo, perché poi penso che quando si ama una persona le si concede anche la fiducia di sparire se si pensa che questo le fa bene, perché non è detto che quando si sta insieme, si vive insieme, si sposa, si debba essere costretti a vivere in mondi che diventano claustrofobici. Uno può avere anche bisogno di andare via per un periodo per, come dire, rinnovarsi interiormente, no? E io penso che tante relazioni poi diventano appunto catastrofiche perché c'è questa, come dire, contrazione, sempre insieme, in mondi, ma noi siamo individui separati, anche se ci amiamo comunque abbiamo storie diverse, mondi diversi, dunque per mantenere un rapporto vivo bisogna continuare a coltivare la propria diversità, la propria unicità. Allora il matrimonio, come la relazione, diventa qualcosa che ci arricchisce. Se invece ci si arrocca nel proprio dover stare insieme, diventa una camera a gas. Anche in questo romanzo, come nei tuoi altri romanzi, c'è molta natura. Sappiamo che tu ami moltissimo il contatto con la natura. Fra questi elementi mi ha colpito in particolar modo l'elemento della luce. C'è una scena iniziale in cui Andrea si avvicina alle arnie perché, insomma, Edith allevava appunto le api, ed è anche questo una sorta di regalo, non so, un dono, un collegamento che rimane ancora fra loro anche se Edith non c'è più. E si avvicina come faceva Edith, cioè avvertendo le api che sta arrivando, perché aprirà appunto il coperchio e c'è la luce che inizierà ad invadere appunto l'arnia e quindi a creare magari un disagio per le api. L'elemento della luce trovo che ritorni spesso in questo romanzo, come mai? Sì, questo libro per me è stato un grande dono perché sono entrata in altri mondi, cioè sono sempre il mio mondo, però ho esplorato altre realtà geografiche, ho cambiato città, ovviamente. C'è molto mare, che non c'è mai stato nei miei libri, perché io, la mia grande parte di me è marina. E poi c'è questo fatto appunto della luce, che giustamente, come mi hai fatto notare, c'è fin da subito. E adesso pensandoci, ripensandoci, in fondo questa è tutta la metafora del libro, perché noi tutti viviamo come api nell'arnia, al buio, quando iniziamo la nostra vita da giovani, siamo confusi, siamo fragili, e dopo piano piano forse invecchiare vuol dire fare piano piano entrare la luce nella propria vita. Forse la relazione tra la luce e la narrazione in questo libro è proprio questo: partire da un punto di oscurità che è la nostra partenza di esseri umani, e conquistando con il ragionamento, con la consapevolezza, con il coltivare un rapporto, una possibilità di entrare in una dimensione di maggior luce. Hai dedicato questo romanzo, leggo testualmente, ai miei genitori, che nonostante le loro devastanti fragilità hanno avuto il coraggio di mettermi al mondo. C'era un libro di cui avevamo già parlato al Cacciatore di Libri, ossia Ogni angelo è tremendo, in cui avevi raccontato il rapporto con i tuoi genitori e ne usciva fuori un ritratto di genitori quantomeno disattenti, in alcuni casi anaffettivi proprio. Ecco, come mai hai voluto dedicare questo romanzo a loro e che peso ancora oggi ha il tuo passato e la tua infanzia, anche nelle cose che scrivi, oltre alla tua vita, insomma? Sì, in realtà avrei voluto dedicargli il mio primo libro, il secondo libro per voce sola, avrei dovuto scrivere ai miei cari genitori senza i quali mai avrei potuto scrivere questo libro. Poi non l'ho fatto perché erano ancora vivi e non volevo ferirli. E sono morti entrambi da molti anni, per cui ho potuto dedicargli un libro. Perché ho pensato, in fondo i miei genitori sono stati veramente terribili, sono stati la negazione di qualsiasi senso di genitorialità, però, poverini, loro non hanno mai saputo amare nella vita. E io ho dovuto imparare a amare imparando il loro non amore, in qualche modo. E dunque mi ha fatto molta, sono gli anni a vecchiaia, molta tenerezza, perché erano in qualche modo come dei bambini piccoli che cercavano disperatamente di capire cos'era l'amore. Poi una delle ultime cose che mi ha detto mio padre prima di morire, ha detto, io non ho mai capito che cos'è l'amore nella vita. Dunque c'era anche una disperazione in questo, no? Poi dimenticavo che sono una generazione che era cresciuta con la guerra, dunque ha avuto tante, si sposavano giovanissime, si prendevano 20 anni, per cui c'erano tante immaturità, no? Per cui io ho voluto molto bene i miei genitori, ma veramente molto molto bene, forse più che se fossero stati dei genitori normali, proprio perché ho visto questa loro terrificante fragilità. Però per quanto io abbia sofferto in maniera devastante per i loro problemi da bambina e non solo da bambina, però ho pensato se loro mi hanno messo al mondo, è stata una cosa straordinaria, perché mettere al mondo un essere umano non è una cosa semplice. Io non ho mai messo al mondo nessun essere umano, ad esempio, no? Dunque sono molto più carente rispetto a loro in questo senso, dunque hanno avuto coraggio, mi hanno dato il dono della vita. Davanti a questo dono, siccome io sono molto appassionata della vita, penso che qualsiasi siano stati i genitori, non puoi fare altro che ringraziarli. E questa era Susanna Tamaro che ci ha parlato di Una grande storia d'amore pubblicato da Solferino. Una breve pausa, poi parleremo ancora di libri. Il cacciatore di libri. Muzzo Pappa ha un'ironia intelligente, un umorismo raffinato come negli scrittori italiani se ne vede poco. Chi avrà mai detto queste frasi così perfette, così precise per descrivere Francesco Muzzo Pappa, che adesso è in libreria con la sua ultima creatura, Un uomo a pezzi, pubblicato da Fazzi. Muzzo Pappa, chi è che ha detto queste cose di te? Ma secondo me sei stata tu. No, ma non mi dire, ma caramba che sorpresa. Ciao Alessandra. Ciao Francesco. Vabbè, le nostre interviste non possono mai essere serie, perché tu sei uno scrittore serio, ma sei uno scrittore decisamente ironico e divertente. Quindi insomma non è che possiamo fare una cosa un po' imbalsamata, dobbiamo far capire ai nostri ascoltatori di che pasta sei fatto tu. Ma rigatoni normalmente. Quindi pasta corta anche tu. Pasta corta mi piace più perché il sugo entra meglio. Ecco, parliamo subito di sugo. Allora, adesso vi faccio capire qualche elemento. Allora, Francesco Muzzo Pappa, l'ultimo romanzo si intitola Un uomo a pezzi. Io i suoi romanzi li ho amati tutti, ne abbiamo parlato qui al Cacciatore di Libri, ve li riepilogo rapidamente. Una posizione scomoda, Affari di famiglia, Dente per dente, Heidi e adesso appunto questo Un uomo a pezzi, in cui praticamente racconta in modo appunto ironico e divertente degli episodi di vita vissuta. La vita di un ragazzo che vive sostanzialmente in un paesino in provincia di Taranto, anche se lui si finge barese, questa cosa poi ne discutiamo, e viene trapiantato a Milano. Allora, ho parlato subito di sugo e di salsa perché in questi racconti di vita vissuta, molto divertenti, che fanno veramente ridere tantissimo, tu racconti della fare la salsa in Puglia e la descrivi come una sorta di impresa epica. Tu scrivi: per noi pugliesi fare la salsa in casa è come andare al militare, un'esperienza che ti forma e non vorresti mai più ripetere. Ma che fate voi quando fate la salsa, Francesco? Ma perché, Alessandra, se ne fanno quintali? Io adesso parlo proprio da pugliese e quasi da salsificio, ecco, parlo da azienda. Noi nella nostra vita, nella nostra famiglia, avremmo passato circa 300 quintali, 400 quintali di pomodori per fare la consueta salsa in casa in Puglia d'estate, che era un'abitudine molto sana, devo dire la verità, che avevamo quando tutti eravamo più giovani e più in forze. Adesso i miei genitori sono ampiamente in pensione, le forze un po' stanno svanendo, però quando si poteva stendevamo tantissimi pomodori in terra e poi facevamo la salsa che poi ci durava per tutto l'anno ed era un'occasione per stare tutti uniti, perché la salsa è un modo anche per, come dire, approfondire i legami. Io poi da 20 anni sono a Milano. Quando rientravo in Puglia e aiutavo i miei a fine agosto a fare la salsa, era un modo anche per raccontarsi, quindi. Questo è sicuramente un modo per raccontarsi attraverso la salsa, ma anche attraverso altri episodi, diciamo, fondamentali della tua vita, che tu descrivi sempre attraverso questa tua lente, appunto, dell'ironia. Fondamentale nella tua vita è la presenza di Carmen, la tua compagna, che compare moltissimo in questo romanzo, che in realtà è un insieme di racconti, appunto, di episodi di vita vissuta. Carmen ha alcune caratteristiche fondamentali. Carmen compra tutto al mercatino dell'usato e un giorno è tornata a casa con una libreria atipica. Cos'è la libreria atipica? La libreria tipica è una libreria storta. Allora diciamo che Carmen ha un cuore d'oro, quindi si affeziona anche a tutto ciò che è fortemente acciaccato dalla vita, che si tratti di esseri umani o di esseri non viventi come una libreria. Lei ha molto a cuore queste cause, decisamente in perdita, diciamo. Quindi una volta è tornata a casa con questa libreria che somigliava molto alla Torre di Pisa, diciamo, esatto, come impostazione. L'ha ridipinta di bianco, l'ha messa in ordine, me l'ha messa di fianco al letto. Io avevo molta paura poi addormentarmi di fianco a questa libreria. Poi, tra l'altro, lei ci ha messo su proprio in cima alla libreria un libro di Margaret Mazzantini che si chiama Non ti muovere. E io la sera, guardando quel libro, avevo molta paura perché in effetti avevo il terrore che mi crollasse addosso. Lei ha questo amore smisurato per i mercatini perché ha voglia di recuperare ciò che nella vita si è buttato. Quindi è in qualche modo anche una metafora del cervello di Carmen, perché lei ragiona così e l'adoro per questo. Devo dire che questo libro è anche una grandissima dichiarazione d'amore nei confronti della tua compagna, perché tu ne fai emergere naturalmente le caratteristiche anche più divertenti, ma si vede che c'è un sentimento profondo che vi lega. C'è un capitolo che si intitola addirittura I trip di Carmen, che sono i trip alimentari. Sì. Carmen, lo diciamo, è una salutista. Tu a un certo punto, in un altro capitolo, scrivi: lei è molto attenta a ciò che mangia e non compra mai nulla che non sia bio, integrale, decorticato e incontaminato. Se poi escludiamo pure gli alimenti vietati dai vari dottori che compaiono in televisione e dai servizi di report, restano grosso modo le ghiande. Cosa ti fa mangiare, Carmen? Sorgo ultimamente. No, vabbè, sai cosa? Che da un po' di tempo cucino io, no? E quindi la cucina. Io sono di mamma pugliese, Ale, e di padre calabrese, quindi Lo so, l'ho letto, io però tu ti normalmente. spacci per Barese, però, tu in realtà sei di Ginosa Marina, diciamo la verità. Perché io sono nato a Bari e poi ho vissuto tutta la vita in provincia di Taranto, però io sono nato al Policlinico di Bari, no? Ecco. Però diciamo che siccome la cucina meridionale è, come dire, a strati a bagno d'olio, perché possiamo dire così, diciamo che ci sono stati un po' degli attriti all'inizio della nostra storia, però abbiamo trovato un punto d'equilibrio, soprattutto da quando ho iniziato, insieme anche al suo aiuto, a fare l'orto qui sul Lago Maggiore, perché mi sono spostato sul Lago Maggiore durante il lockdown, e devo dire che abbiamo trovato davvero un compromesso, perché mangiamo cibi totalmente biologici, perché coltivati da noi, però sempre con quel pizzico di olio in più, con quel litro di olio in più che non guasta. Sì, però tu mi devi spiegare a questo punto la tua ricetta della frittata di patate. Siccome è un must anche nella famiglia tedesco, tu mi devi dire se la frittata di patate le soffriggi prima le patate, le Sì. metti a crudo, le lessi. Ah, le soffriggi anche tu. Allora, sì, io le soffriggo. Poi ci metto un po' di, vabbè, in Puglia si chiama salsiccia curata, non so se a Bari c'è anche la stessa tradizione, però da noi a Taranto è la salsiccia del macellaio, cioè la salsiccia che fa essiccare lui proprio nel retrobottega. E ci si mette quella, dopodiché si sbatte l'uovo e una girata e una voltata ed è prontissima, però sì, Ecco, noi non è che stiamo divagando, tutte queste cose le racconti nel tuo libro, appunto, Un uomo a pezzi, cioè non è che adesso stiamo rubando il mestiere a qualcun altro parlando di ricette. Ma è una scusa davvero, parlando di me è una scusa per parlare poi di tutti noi. Io mi sono reso conto di quanto in effetti la gente si ritrovi in questi racconti, anche i lettori, perché ci sono piccole perle di vita quotidiana, no? Che in realtà pensavo appartenessero solo a me, perché poi l'esercizio è stato quello in qualche modo di mettermi alla prova col mio quotidiano, che è uno di quegli esercizi più difficili da fare quando si scrivono i racconti. Quando per anni ho frequentato la scuola di Raul Montanari di scrittura a Milano, lui diceva che si tratta comunque di un esercizio complicato, perché parlare di se stessi usando la forma racconto e quindi la stessa metrica tipica del racconto, quindi la scansione, incipit, svolgimento, conclusione, non è affatto facile. Quindi vedere che poi tanta gente si è innamorata di questi pezzi di vita, ci si è ritrovata, mi fa immensamente piacere, e mi fa ulteriore piacere il fatto che molta gente stia provando a fare la frittata in casa. Ecco, a fare la frittata come la fai tu. In genere si dice che i comici nella vita normale poi siano tristissimi, siano delle persone, sì, anzi, che magari hanno dei dolori alle spalle. Uno scrittore carico di umorismo come te, nella vita normale fa schiattare dal ridere o è veramente un peso? Ma dipende dai momenti, devo essere sincero. In questo momento storico preciso devo dire che l'umorismo per me è un calmante potentissimo. Durante il lockdown io ho letto moltissimo, ho scritto tantissimo e mi sono reso conto che calmava anche me scrivere umoristico. Quindi in qualche modo c'è dentro di me questa voglia di leggerezza continua che cerco sempre di tirare fuori, che aiuta a sdrammatizzare moltissimo la vita, e l'ho vista anche applicandola ai miei genitori che sono lontani, sono in Puglia, quindi mi sono trasformato quasi in un animatore del villaggio durante questi mesi, e mi sono reso conto proprio del potere curativo che ha avuto su di loro ma anche su di me, quindi devo dire che è molto salvifica. Un'ultima domanda, tu nella vita lavori in un'agenzia pubblicitaria, quindi sì, insomma crei degli spot pubblicitari, sì, e racconti in questo libro che hai vinto anche un sacco di premi, ma sono stati molti dei premi insoliti. Qual è il premio più strano che tu hai vinto? Quello che racconto nel libro è effettivamente molto strano, perché ho vinto 10.000 euro in ristoranti. Cioè, quindi dovevi spendere 10.000 euro in ristoranti in un anno? Sono durati un anno e mi sono fatto tutto il conto, avevo proprio quasi un file Excel di quello che potevo spendere a settimana, ed è stato molto bello, perché poi una parte di questi soldi li ho regalati ai miei, sono andati a mangiare pesce giù in Puglia, una parte li ho regalati alle 1.500 euro di mangiate con gli amici, gli altri 7.000 li ho messi come assegno, li ho depositati in un noto, diciamo, locale milanese in cui ho speso l'ira di Dio. Ma un altro premio interessante che mi è arrivato, devo dire, mi è arrivata una fornitura completa di mobili del valore di 16.000 euro. Io da pubblicitario agli inizi ero veramente povero, andavo in giro, io compravo diciamo quelle marche che vendono vestiti a 4,99 euro, per intenderci. Quindi vincere 16.000 euro di mobili mi ha costretto a dover lasciare il mio monolocale per prendere un bilocale e metterci mobili dentro. Perché quindi ce n'erano troppi a quel c'erano punto. Troppi. E quindi io mi sono trovato in queste situazioni veramente bizzarre, però credo il premio più bello in assoluto, e la finisco qui, è il primo anno di questa manifestazione, in cui il primo premio era un viaggio ogni anno dove vuoi tutta la vita. Fantastico! E dove sì. sei andato? Io non l'ho vinto, non l'ha vinto qualcun altro. Ah, ok. Però devo dire che quindi c'è qualcuno che ancora continua a usufruire di questo premio. Fantastico. Ed è bellissimo sapere che veramente, come si fa nei film, puoi dare, come dire, una schizzata al mappamondo e puntare il dito dove vuoi e puoi andare in quel posto senza troppi problemi. È fantastico. E allora, se avete voglia di un po' di evasione, se avete voglia di sorridere, di guardare veramente la realtà che ci circonda con la lente dell'ironia, vi consiglio, come sempre, caldamente Un uomo a pezzi di Francesco Muzzopappa, pubblicato da Fazzi. Grazie Francesco. Grazie a te. Poi mi offri il caffè, la focaccia, certo, panzerotto. Focaccia. Grazie mille Muzzopappa, ciao, a presto. Grazie a te. Ed è tutto anche per questa puntata. Se la volete riascoltare in podcast potete andare su radio24.it. Se volete seguirci sui social siamo presenti su Facebook alla pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri - Radio 24 e poi su Instagram come Cacciatore di Libri ma senza l'articolo Il. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.